avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans la vie. Questa mattina dentro il vagone della metropolitana che mi rese infermo attaccandomi bacilli a tonnellate, la parola più ascoltata, più sentita e pronunciata era soltanto una. L'avevo detto, si vedeva. Sì, perché ieri chi è che si è perso? Vespa, con il suo plastichino nuovo di zecca della casa di Avetrana. Bellissimo. Non hanno in tempo a fare le automobiline, non hanno fatto in tempo. Quindi hanno ritagliato le sagome di cartone. Era l'unica nota dissonante. Era un plastico perfetto. Avevano fotografato la villettina di Avetrana, l'avevano riprodotta su compensato. Era felice Vespa, bellissimo, con la sua casa delle bambole, tutta bella, con le stanzine, il giardinetto, il cancello, la porta del garage. E tutti gli italiani pronti lì a dire la loro, a cercare di cogliere. Immaginavo mamme, nonne con il block notice in mano, con la matita rossa e blu. Conte muscoli facciali, 22, 23, sta mentendo. Sì, sta mentendo, non ha usato tutti i muscoli facciali, sta mentendo. Tutti gli italiani erano poliziotti per capire questa meravigliosa storia che ogni giorno ci dà una sorpresa. Venerdì ce ne occupiamo anche noi, sì, perché mica siamo pizza e fichi, anche noi ce ne occupiamo, se ne occupano tutti. Venerdì parleremo del meraviglioso fatto della impossibile morte e risurrezione mediatica di Sara Scazzi. Lo zio Michele Misseri, era lui l'assassino, l'orco, addirittura orco zio, aveva scritto un giornale titolando, giocando sulla terrificante assonanza. Ieri viene fuori che era una vittima di queste due donne, di Cosima e di Sabrina, che lo facevano dormire su una sedia a sdraio. Lo facevano mangiare con le mani, non gli davano nemmeno la forchetta, con quelle mani nere, quelle dita zozze che noi immaginavamo pronte a strangolare i nipoti, invece probabilmente una vittima, o forse no, o forse il tutto contrario, sono tutte supposizioni. Beh, noi questa mattina analizzeremo quella che è la scaturigine letteraria più profonda e più sensibile per cui siamo tutti poliziotti. Siamo un esercito di poliziotti, siamo un popolo di poliziotti, siamo impoliziottiti fino alla radice del nostro DNA. Perché? Perché sono anni che il nostro cinema non fa altro che produrre degli esempi splendidi di immarcescibili poliziotti. Come va il bambino? È lui che ti dà tanto coraggio. Di che? Quando torna, Diomede? Non lo so, forse domani. Allora, se voi permettete... No, mai chiesto nemmeno perché sono venuto fin qui. Perché? M'hai visto arrivare e hai tentato di correre via ad avvertirlo. Non è vero. Di che è stata l'idea? Tua o sua? Mi ha dato la chiave e lui mi ha fatto fare un doppione. Avete scelto il giorno adatto, tu fuori per gli anelli coi testimoni. La signora era uscita e tutto faceva pensare che sarebbe tornata tardi. Certo, ti aveva detto persino che nel caso dovevi dar tu quei soldi a Valdarena. Dunque via libera, ad una settimana lo furti in casa di quell'altro. Diomede ne era uscito pulito e chi poteva pensare a lui? Allora gli hai dato la chiave, ma lui si è sbagliato nel restituirla. Ti ha restituito quella nuova, questa. Non è vero. E cosa non è vero? Niente è vero, ve state inventando tutto voi. Io gli volevo bene la signora mia, come una sorella. Ah, certo, certo, tu non volevi che morisse, no? Ma è andata male, lei è tornata troppo presto. È profonda la radice del nostro dilemma di fronte alla verità che sembra così sinuosa, è così viscida, così difficile essere definita. Rashomon è sempre presente, ricordo questo immortale film di Kurosawa, in cui la verità è la verità di ognuno che la racconta. È stata uccisa una donna, un crocicchio, parlano tutti, ognuno parla e dice la sua verità, e non c'è mai una verità assoluta. Viene anche evocato alla fine il fantasma della morte, qualcuno lo farà prima o poi, ci sarà la medium che avrà ribeccato la piccola vagante animella di Sara Scazzi che gli dirà chi è stato a ucciderla. Non mi giudicate cinico, ma in realtà la realtà è ben lontana da quello che realmente è accaduto, quello che realmente accadrà. Abbiamo una meravigliosa elaborazione di ogni orrore, che è il grande racconto che fa la televisione. Non lo dico con disprezzo, non lo dico con distanza, lo dico con un senso gioioso di immersione in questa storia. Abbiamo sentito un pezzetto del maledetto imbroglio, il film di Germi, tratto dal famoso romanzo di Carlo Emilio Gadda, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che comincia a trattare, ad entrare nello specifico di questa nostra passionaccia per il giallo di paese, il giallo di quartiere, il giallo di Crocicchio, di Stradina. Inizia con una canzone, Sin nome Moro, che fu scritta allo stesso Germi e cantata da Lida Kelly, la prima moglie o seconda o la terza di Pippo Baudo. Un grandissimo incrocio fra passione, morte e celebrità. E questa mattina ne parliamo volentieri di questo excursus attraverso il cinema e dell'investigazione individuale con Giuseppe Sansonna. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, devo dire, è puerpero, fresco di parto, appena figliato da pochi giorni, un bel maschio. Quando? L'altro ieri? Venerdì. È diciamo un ipotetico figlio di Melog, perché lo hai concepito e la gravidanza è proseguita tutto il periodo dei mesi che hai parlato qui da noi. L'ho incubato qui, negli studi di Melog. È benvenuto nel mondo dei padri felici. Devo dire, apro una piccolissima parentesi, ma per mia personale vanagloria, visto che questa idea dell'area prolifica che vige intorno a Melog, ho ricevuto un messaggio inquietante ma anche divertente. Mi scrive un ascoltatore, lo dico, poi ripigliamo dei delitti, ma fa parte comunque dell'humus in cui si svolge la nostra voglia di raccontare storie, di seguire storie, di essere poliziotti. Annunciazione. Ho notizia certa e confermata che una mia amica, dopo essere stata sollevata a luglio nella piazza di Viterbo, dove fece una sollevazione di piazza, prendevo le donne sulle spalle, ebbe finalmente in dono una gravidanza da molto cercata. Quella stessa notte di sospensione, il marito, facendo emulo dell'innalzamento, colse l'amore grave. Vergognosa mi chiede di ringraziare in sua vece, pare che nonostante si sia appesantita, si senta molto leggera. Sono felice di aver alleggerito, facilitando l'ingravidamento di questa ascoltatrice. Giuseppe, allora, di cosa stiamo parlando? Dunque, Maledetto imbroglio è un film del 59 e tutti dicevano che il giallo in Italia non si poteva fare. Lui invece, Germi, fa il primo giallo e dice non si poteva fare perché la polizia non incuteva spavento nel senso fatale della legge, ma faceva solo ridere. Invece Germi prende, mutua questa macchina trita linguaggio, questa pluriforme caleidoscopio di Gadda, e lo trasforma in questo giallo robusto molto ispirato al mondo. Ecco, perché faceva ridere? Perché c'era Totò e Peppino, sì, De Sica, Manfredi, Sordi, il carabiniere di Pane, Amore e Fantasia. È incredibile, la legge è inattendibile in Italia, frana sempre il codice, sono tutti piedi piatti come il commissario Basettone, sono sbirri da eludere. E invece qui c'è un poliziotto che ha qualcosa di paterno, di fondamentalmente etico, che ha in Gravallo, è lo stesso Germi che ha la sua profonda solidità anche paterna nei confronti della Cardinale, che invece è una cameriera di paese. I proletari arrivano dalle periferie e accedono al mondo borghese, e Gialla è la borghesia degli anni 50 romana, che ha la faccia di Claudio Gora, il borghese tutto un pezzo che ha la divisa da fascista, ma è marcio dentro, così come viene sboccia un sublime archetipo che è quello di Franco Fabrizi, che è Valdarena, che è il cugino infido, tremendo. Che... Ecco, se vogliamo fare un parallelismo a questa rappresentazione dell'investigatore, del poliziotto, del carabiniere, di quelli che ti guardano e tu improvvisamente, anche se pensi avere la coscienza pulita, ti senti un minimo di tremore, perché mi guarda, cosa penserà? La domanda del carabiniere che ti ferma per strada anche per una cosa banalissima, ti dà un'occhiatina e subito dici Madonna, si accorgerà che ne so, ho truffato il mio amico, oppure ho fatto la cresta sulla spesa, così ti senti tutta la cattiva coscienza che emerge. E questa visione moderna televisiva dell'autoproclamazione del poliziottismo da salottino, qua non fanno più nemmeno adesso paura gli investigatori, sono camuffati, non si vede una divisa. Nelle sequenze televisive di Sarascazzi le uniche divise che si vedono sono quelle dei carabinieri a fare il cordone sanitario per evitare che i protagonisti del giallo non siano assaliti alla folla da giornalisti. Sì, volendo fare un riferimento cinematografico alla vicenda che arrivi tu, io vedo molto Brutti, Sporchi e Cattivi fuso alle Notti dello zio Tibia, insomma, cioè, o anche a Non aprite quella porta, La famiglia di cannibali che gira per l'America. La cugina in questione mi sembra già pronta per il pubblico di Maria De Filippi, cioè già, è già una inserita in quello, anzi probabilmente appena avrà risolto i problemi potrà anche accedere allo studio. Diciamo stiamo assistendo all'adolescenza e la prima uscita nel ballo delle debuttanti di quella generazione che comunque è stata concepita su questi film, è stata allevata su altri film che tu hai citato, questa sorta di brivido splatter dell'orrore più estremo che sembrava appartenere a delle province lontane, ecco, La famiglia di cannibali, solo in America, con quelle casettine, con quei motel, con quelle motoseghe nei garage può succedere questo, ma anche da noi succede qualcosa del genere. Le mie relazioni sono tutte di alto livello. Alto, medio, basso livello. persone vicine, persone lontane. È un buongiorno. Eh sì, perché questa è una città industriale, cattolica, una città di gastronomi, di sportivi, di studiosi. E invece niente. La gente in chiesa, nelle fabbriche, a tavola, negli stadi, nelle biblioteche non pensa che è una cosa. Tu vedi uno che cammina per la strada, triste, preoccupato. Credi che abbia chissà quali problemi economici, familiari. Lo compatisci. E invece niente. Sta pensando solo a quello, cattolicamente. I bambini hanno fretta di crescere per cominciare. I maturi non vogliono invecchiare. 800 24 00 24, mi dice Fabrizio Intonti, che con Valerio Rocchetti e tiene a bada questa trasmissione, che stanno tutti chiamando su Sara Scazza. E lo so, la gente è appena si è appena lavata i denti dopo la grande nottata di diretta televisiva, e quindi qualcosa vuole raccontare di quello che ha visto, di quello che ha intuito, delle prove, delle tracce, del sintomo. Ma quanti staranno con il Black & Decker nel loro piccolo studiolino, nella cantina, nella tavernetta, a costruirsi il plastico per fare dei bellissimi giochi familiari del piccolo delitto in famiglia? Ma voi chiamate, ditemi quanto avete questa vocazione dell'investigatore, quanto voi sapreste fare meglio di quelli che stanno facendo, o quanto trovate divertente, avvincente fare questo grande multiplayer allargato. È come un videogioco in realtà, voi che tanto dite, come diceva il rappresentante degli utenti e delle vestali antitelevisive organizzate l'altro giorno a Buona Domenica, è tutta colpa dei videogiochi perché succedono queste cose. Cioè, ve l'immaginate il contadino zio Michele Misseri con i videogame, con il joystick in mano. Non ha il dito opponibile per poterlo usare, diciamo. In assoluto non è così. Ecco, invece cosa abbiamo sentito? Cos'era? La voce di Tognazzi. Tognazzi, invece qui siamo tutto altro contesto, questo è 69, il commissario Pepe di scuola. E quando ancora appunto l'invasione televisiva non era così massiccia e la gente si divertiva in altro modo, e tutto rimaneva, cioè c'era la chiesa, questa è la provincia veneta che assurge a dimensioni appunto metafisiche, che il cattolicesimo esasperato nasconde è questa... quel puriginoso pecoreccio nascosto sotto il profumo d'incenso tipico del vicentino, del padovano, quelle zone lì. E quindi la fregola è calvinista, esattamente come il lavoro in Veneto, quindi si copula di nascosto, si dà sfogo alle proprie perversioni, e il commissario Pepe è costretto a indagare, a sollevare questa coperta, e quando poi... Che è la vera copula corroborata da Piacere, quella si fa di nascosto, con esatto, sensi di colpa. Sì, con la regola che ti costringe, tu che la eludi, però lui è costretto a, da delle lettere anonime, a indagare suo malgrado, e soprattutto non può attaccare i potenti, ma può solo colpire i piccoli, e questo lo... distrugge la sua etica, perché in fondo è un commissario etico il commissario Pepe, insomma. E qui c'è un personaggio molto particolare, che è questo storpio che gira su questa carrozzella, che invece è l'autore di queste missive anonime. La cosa bella di questi film sono... Era l'unico che non poteva consumare, quindi si sfogava, esatto, denunciando gli irruzioni altri. Surreali sono la cosa bella di questi film, i caratteristi. Questo gira su questa carrozzetta per Vicenza appunto, e osserva, fa una sorta di monitoraggio di tutta la vita sessuale del paese, e nella censura manda queste lettere anonime. Sì, perché allora c'erano grandi protagonisti. Oggi il caratterista è diventato il protagonista. Oggi abbiamo una televisione, un giornalismo, una politica rappresentata da caratteristi che sono in primo piano. Il caratterista ha la sua gloria proprio perché c'è il grande protagonista e fa l'antitesi, capito? Sì, è vero, no, ma poi questo è interessante, questo discorso dei caratteristi. No? Per esempio, no, senza fare entrare nella politica, no? Bersani per esempio, ha un viso che io vedo, senza proprio alludere a nulla, però va benissimo il controllore dell'FS. Tu te lo immagini, Bersani che accende, vero, la luce, sì, di notte, fa biglietti, io lo vedo con la tracolla di cuoio. C'è anche quella chierica in testa tipica del cappello d'ordinanza del ferroviario. È perfetto. Vabbè, poi i vari La Russa, poi, insomma, la destra offre dei volti interessantissimi, cioè tutta una galleria sprecata per la politica in fondo. Sì, perché il protagonista dovrebbe avere un volto anonimo. I grandi della politica del passato, a parte Andreotti che con molto rispetto veniva caricaturizzato, erano i veri protagonisti, perché erano impenetrabili, indefinibili, e come li rigiravano erano sempre uguali, capito? Come quei salami che dalla prima all'ultima fetta sono tutti uguali, non davano sorprese. E oggi invece sono rutilanti, modificati, modificabili, sono bellissimi, sono dei prodotti di una sorta di industria genetica molto fantasiosa. E comunque, tornando al film, al commissario Pepe, c'è per esempio il personaggio della madre di Tognazzi, delirante, una invenzione sublime, surrealista, che ascolta Ungaretti che declama, te lo ricordi Ungaretti quando declamava? Sì, prima dell'Odissea, sì. Non si capiva una parola, però sì, me lo ricordo. Che urla dalla televisione, tutto monumentale, in bianco e nero, e lei si come, ah, che bravo figlio, bravo ragazzo, andate davanti a Ungaretti. Cioè, questa... aveva già 90 anni. Esatto, no? E queste uscite surreali che io rimpiango del cinema italiano. Penso che la Rai non abbia più nulla di quegli Ungaretti che faceva, diciamo, il prologo alla Divina Commedia, all'Odissea, leggeva dei pezzettini. Era un grande colpo di genio, una grande scelta registica, oggi nessuno mai lo farebbe. C'era questo, il poeta per eccellenza, il Vate, vecchissimo, totalmente scomposto, antitelevisivo, poi dava proprio l'idea del Vate che raccontava, cieco, veggente, non più Tiresia, capace di vedere. Un Tiresia, era un gigantesco. E penso che sia scomparso. Io per gli anni che stavo in Rai, mi ricordo, lo cercai, era una di quelle sorti di reliquie scomparse, perché per cialtronaggine di qualche... Figurati, al magazzino della Rai. Sì, ci avevano rollato le sigarette, non c'era più, era scomparso. Lo saprà quello che verrà a sostituirmi. Se sarà peggiore di me, subirà quello che io non ho voluto subire. Se sarà migliore di me, farà quello che non ho avuto il coraggio di fare io. Senz'altro, signor commissario. Perché? Voi siete tutti leoni? Per il resto so già come andrà a finire. Mi manderanno in una bella isola, con tanto mare intorno e una città nel mezzo, come questa. Con tanto sesso. Un illustre clinico, una nobildonna, uno stimato umanista, il figlio di un industriale, la figlia di un prefetto, il figlio di un clinico, figlie di una nobildonna, un illustre umanista. Povero commissario Pepe, la sua rettitudine, la sua deontologia lo ha condannato all'isolamento e all'esilio. Sono sempre esuli coloro che seguono diritti e il senso del dovere. Sì, infatti è interessante perché questi sono osservatori della realtà, i detective italiani, soprattutto che hanno questi volti come Tognazzi, leggono un tessuto antropologico. Oggi è tutto manifesto, non c'è bisogno più di dare questa soggettiva da detective, perché tutta la televisione appunto svisciera e ci rende tutti osservatori del nulla. Soprattutto abbiamo oggi il manuale dell'interpretazione, siamo tutti esperti, siamo tutti anatomopatologi, siamo tutti medici legali, siamo tutti criminologi, siamo tutti interpreti dei muscoli facciali. Guarda che veramente, io sentivo questa mattina alla metropolitana due signori in piedi con i pacchi della spesa, con i tipici cambi d'abito per andare in ufficio, che cominciavano, uscivano di casa alle 7 e rientreranno alle 22 stasera, c'erano tutta la sporta della loro efficienza dietro, che parlavano proprio di muscoli facciali. Hai visto la faccia come ce l'aveva? Perché tutti di colpo sono convinti di poter leggere questi dettagli, come quando c'è la vela, no? Le grandi regate, la gente si sveglia alle 3 di notte e comincia a parlare di trinchetti, di corde, di e uno magari vive 30 anni con una persona e non sa nemmeno cosa ci sia dentro la sua testa. Rosina, buongiorno. Buongiorno, mi scusi che la chiamo. Non ma... perché si scusa, è un piacere. Ok, visto che sono una casalinga e madre di famiglia, mi sono resa conto che purtroppo, forse, se uno nota bene, qui il potere sta vedendo rubare la prima pagina. Questo infatti è un bel guaio. È un bel guaio, perché? Perché... diciamo che il popolo sta riprendendosi, diciamo, anche attraverso questa storia brutta, esecrabile e veramente angosciosa, si sta riprendendo la capacità di intervenire, e speriamo che intervenga anche nei problemi più importanti. Ma come? Noi... intervenire in che maniera? Faccia capire, Rosina, si è fatta il plastico a casa anche lei della villetta? No, io non mi sono fatta il plastico, mi sono fatta soltanto un'idea normale di un delitto avvenuto in una famiglia, diciamo. E qual è la sua idea, secondo lei? Senza entrare nei particolari, è stato quello. Ma è stato no, quello. La mia idea è stata di uno scatto di ira di una ragazza o di un padre, non lo so. Giustificabile entrare... scatto di ira? Non giustificabile, però bisogna vedere quanta rabbia c'era dentro ognuno di quegli esseri che stavano là. E l'unico capretto sacrificale è stata quella povera ragazza. Silenzi, coperture, cose non dette. Non c'è bisogno dello psicologo per capire certe situazioni che stanno nel cuore di tutti, e noi tutti possiamo essere possibili, non lo voglio dire. Guarda, no, lo dica, ci abbiamo fatto intere trasmissioni, siamo tutti assassini, Dio dica, non è mica... Siamo sì, tutti potenziali anche assassini. Anche in questo momento, anche in questo momento. Ma anche io lo sono, se non lo sono è perché ho una civilizzazione che mi impedisce, che mi fa controllare i miei scatti, però tutti siamo capaci di uccidere. Sì, ma anche questa volontà adesso di spegnere le luci, giustissimo. No, no, nessuno vuole spegnere. Mi sembra invece. Cosina, una... scusi, no, Cosina. La volontà di spegnere le luci la vede solo lei, nessuno le vuole spegnere, anzi, stanno tutti andando dall'elettricista a comprare nuove lampadine per tenerle più accese. Chi le spegne? Quando mai? Perché il potere si vede tolta la prima pagina, ed è questo che dà fastidio. Non al potere, è questo che dà fastidio, che non si parli più di appartamenti, di ville, di secondo lei, Caraibi, ecco. E tutto il resto. Quindi secondo lei, diciamo, l'evidenza che si dà al caso Scazzi è una sorta di subdola manovra per non parlare di quelle cose che sì, bisognerebbe parlarne, tipo le corruzioni, le ville, le case, le cose che dice lei. Il delitto di questa povera ragazza che secondo me è più normale di qualsiasi altro di altro evento. È bene, normale. Bene, nella Rosina. Normalità della crudeltà di quello che è avvenuto. Rosina, ci lasciamo perché devo dare la linea urgentemente alle informazioni dalla borsa, però mi fa sorridere pensare che Rosina esattamente arriva alle conclusioni del commissario Pepe. Rosina è pronta all'esilio perché lei ha capito tutto, ha visto le cose che non si possono dire, ha intuito quello che è il volto nascosto, l'aspetto marcio del grande apparato della presentabilità pubblica, e quindi Rosina, come il commissario Pepe, prepari la valigia che la manderanno in esilio. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Respira, respirate che vi fa bene, finché il Padre Eterno ve lo consente. Don Raffè, voi siete un uomo che ha studiato la musica, voi tenete una sensibilità, e quindi a me vi dovete capire. Se fosse per me, boh, noi ci faressimo una bella scampagnata sopra Posillipo, voi ci suonassimo due canzoni col mandolino, due pomarola all'insalata, e staressimo tanto bello. Ma purtroppo non si può fare, non si può proprio fare. Scusate, signor... Sella Gregorio, molto onorato. Sentite, signor Sella, se voi mi dite che cosa volete da me, può darsi che io vi possa aiutare. Non ve l'ho detto. E no. Io non gliel'ho detto, sta capa mia. E quello per forza non capiva niente. Io non gli ho detto niente. E voi per forza non capivate niente. Io non ve l'ho detto. Appunto. Sentite, don Raffè. Voi avete fatto questa benedetta serenata. Ve lo ricordate? Sì, signore. E chi me l'ha fatto fa? Chi? Chi me l'ha fatto fa? Chi? È quello che dico pure io, ma chi me l'ha fatto fa? 800240024, il momento in cui tutti vorremmo vedere qualcun altro, il nostro peggior nemico, il nostro vicino di casa o il personaggio che vediamo improvvisamente celebrato alla televisione perché è al centro di un grande delitto. Il momento in cui ha le spalle al muro, in cui il poliziotto di mestiere lo incalza, usa tutte le sue strategie, i suoi piccoli sadismi, i suoi burchellismi, i suoi giri di parole, le figure retoriche, le forme ingannevoli, cerca comunque di fargli venire la sudarella, di metterlo alle strette. Giuseppe Sansonna padre, questa mattina di cosa stiamo parlando? Questo è Giallo Napoletano di Corbucci, e qui è un film che distrugge gli stereotipi della napoletanità. C'è Mastroianni che è un vaso di coccio fra duri vasi metallici in questa Napoli livida, violenta, e il mandolino che lui suona diventa la causa di tutte le sue sciagure. Una menzione particolare per Iavarone, che fa la parte di questo camorrista che lo picchia e lo tortura, no? E ha questo viso straordinario, questa fisicità corpulenta e questo cappotto da avvoltoio con questo collo di pelliccia che si usava negli anni 70. Quindi ancora una volta sono i caratteristi a dare sapore, a dare contenuto a un film. Tipico cappotto da piccolo boss, capito, col collo di pelliccia. Poi diventa il cappotto dell'industriale arricchito, dell'imprenditore andando via via. L'opulenza viene rappresentata. Il pelo è il potere, insomma. Il pelo è sempre stato il potere. Totò e Peppino, quando vanno a Milano, si coprono di pelo perché è la città del pelo e del potere. Stefano, buongiorno. Buongiorno, brevemente io niente, volevo fare una piccola precisazione su quello che aveva detto la signora Rosina prima, senza giudicare nulla a nessuno, però insomma mi sembrava un po' la solita ipocrisia dire vogliono coprire cose politiche con queste cose. Poi in realtà a me ogni tanto, guardi, piace sguazzare nel luogo comune come un'anatra nello stagno, quindi l'ho chiamata apposta. Ecco, niente, per cui penso che comunque alla fine della fiera faccia audience, per cui la trasmissione ci sta per una società. Ecco, ma lei dice che in realtà conferma il fatto che ci sentiamo un po' tutti interpreti, segugi, pronti a capire e accogliere. Guardi, l'ho detto anche io a casa mia, perché ormai è il divertimento di famiglia la sera guardare Il Plastico di Vespa, oppure guardare Matrix, oppure guardare le trasmissioni che abbiamo la fortuna di avere a disposizione, che trattano questo meraviglioso giallo condivisibile. Hai visto, l'avevo detto, l'avevo pensato, perché quella volta, ecco, questo fa tutti di noi dei professionisti dell'indagine a distanza. Infatti io condivido molto questo concetto, tanto che qualche settimana fa, io non sono, diciamo, un assiduo telespettatore, però su Facebook avevo proprio lanciato una sorta di provocazione con un video di Marilyn Manson facendo questa l'avevo visto, adesso ho capito chi è lei, sì l'avevo visto. Ecco, proprio perché chiedevo cosa cioè, certo, è orribile questo video, eccetera, però poi io mi sono per primo identificato dicendo siamo orribili un po' tutti, dicendo io no, non farei mai una cosa del genere, poi quanti desiderano. Io proprio ieri un amico diceva il mio vicino lo ucciderei, e io dico devi anche stare attento dove lo dici, con chi lo dici, perché poi tutti, secondo me, più o meno abbiamo questi atti, questi momenti di poesia che ci fanno... Tutti no, diciamo tutti ci pensiamo, no. Se ce l'avessimo tutti io sarei qui col rasoio a tagliare a pezzi Sanson. Giuseppe? No, senso, abbiamo dei momenti di cronaca nera, così, ma non... In ogni caso la cronaca nera è sempre stato un sintomo della realtà, cioè Truman Capote, quando scrisse A Sangue Freddo, coglieva un qualcosa dell'America, una sfumatura sull'America attraverso un episodio realmente accaduto. Forse la tempesta mediatica un po' distorce e rende tutti comunque partecipi, tutti i lettori, e ognuno con le sue letture, e si crea in questo una sorta di Babele mediatica. Guarda che nella TV satellitare, dopo lo sport e dopo i programmi per gli autoconsumatori spontanei, cioè i film porno, Fox Crime è quello più guardato, certo. Il crimine è quello che tira di più. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Lei è un ex carabiniere? Sì. Continua a fare l'investigatore oppure ha cambiato mestiere proprio? No, guardi, sono penso il pensionato più giovane d'Italia, sono in pensione. Fortunato. Wow, sì. Che cosa da dire allora su questa tendenza di essere tutti investigatori, tutti segugi, tutti commissari? Allora, guardi, secondo me sinceramente è simpatica la cosa, fa ridere, per fortuna le cose serie sono altre. In che senso? Che io ho 15 anni di carabiniere e queste cose le ho viste molto da vicino. Non vedo nessuna cosa strana, è una disgrazia che ha fatto il suo effetto. La cosa ridicola qual è? Che tutti in televisione, tutti veramente scienziati del crimine, ci sono dei criminologi, io spero che non vengano pagati, che hanno proprio un impegno mensile dietro a una disgrazia, e ognuno dice la sua per garantito, cioè poi il giorno dopo magari sta sull'isola dei famosi a ridere, a scherzare, mentre si trova in una... Guardi, io ho avuto un'esperienza simile con i medici legali, avendo fatto quest'estate una trasmissione per Radio 24 con Cristina Cattaneo, che è uno dei più seri che esistono in Italia, infatti all'estero chiamano lei, e non va mai in televisione. Dice, la medicina legale non è una scienza esatta, io studio, cerco di portare dei risultati, ma non andrei mai in televisione a dire il DNA, la prova, il capello, il pelo e via dicendo, perché non è niente di certo, ci sono dei margini d'errore terribili. Quella è una vera scienziata, quelli che ma vanno in televisione... Ma andiamo più nel dettaglio, in effetti. Il problema grande è che, ripeto, tutti capiscono questa cosa, cioè addirittura siamo arrivati al punto che in televisione si dice meno male che c'era i giornalisti e la televisione, se no non si arrivava al fine dell'indagine. Lei ha fatto anche attività investigativa negli anni che faceva il carabiniere? Ma 14 su 15, guardi. Quindi ha visto anche vicende familiari, ma diciamo, guardi, critiche? Gliene dico, di questo genere ne ho viste tantissime. Mi ricordo benissimo una mattina sono ad un intervento, un nonnetto che era morto a terra accoltellato, e fuori tra tutto il casino c'era il nipote tossicodipendente che era l'artefice di tutto. Cioè, e lei l'aveva capito subito oppure ha dovuto fare un... No, ci mancherebbe, appena arrivi su un posto c'è tra tutti il casino, non penso che ci sia un essere. Quindi lei ha conosciuto professionalmente la lucidità dell'assassino, sì, nel sì, mentire? Sì, certo, guardi, io mi ricordo, ci sono rimasto nei miei 15 anni di attività, ho avuto una cosa che mi è rimasta un po' dentro, diciamo, la scomparsa di una donna, Cinzia si chiamava. Va bene, forse sicuramente, non so se se lo ricorda, una ragazza fiorentina che si stava separando e il marito l'ha uccisa. Non ricordo il fatto, sì. Lei ha seguito questo comunque, caso? A parte sì, proprio di persone. Le dico che questo signore ha fatto 15 anni di carabiniere, va bene? Vengo da Napoli, quindi diciamo non vengo da un paese, non sono distratto, va bene? Le dico, questo signore abbiamo preso una denuncia in un ufficio con persone con 50 anni di attività di indagine addosso, va bene? Questo signore, un classico cacciatore, via Regina, è venuto, ha fatto una recita che non è da che livello. 3 ore in un ufficio ha preso per... scusi, sì, per sì, ha preso per il culo tutto, tutti, certo. Ma da magistrati a GIP, dicendoci, guardi, io ho accompagnato la mia ex moglie a Firenze e basta, e partire non è più arrivata. Quindi la storia dei 25 muscoli che si muovono e via dicendo, sono ma un po' a fregnarci. Sono giochi, perché secondo me se la D'Urso parla a un pubblico normale non può parlare di queste cose qua. Senta, io devo Scusi Vincenzo, lasciare un attimo la linea alle informazioni del traffico. Se resta con noi un altro minuto, mi interessava proprio il punto di vista concreto e reale di chi queste cose le conosce. Quindi ci sentiamo tra un attimo, siccome parlavamo di commissari, di poliziotti, carabinieri, investigatori di casa nostra, ne abbiamo uno che conosce il mestiere e quindi ce lo teniamo un attimo. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. A un certo momento la ragazza torna, Vilma, e a me per poco non mi prende un colpo. Oh, questa ragazza, io l'ho interrogata quando è tornata, come ho interrogato tutti quanti gli altri, no? Cioè, signorina, scusi, lei la sede del delitto dov'era? E quella con la voce più candida del mondo mi dice... Ero in crociera su una nave della Marina Militare. Eh? In compagnia del Presidente del Consiglio. Quindi tu capisci, caro Don Giacomo, che razza di incasinamento troppo più grande di me mi sono messo? Io sto sudando solo all'idea. Insomma... Io stavo per sputtanare il capo del governo italiano in un momento politico come questo durante la sua scappatella di Ferragosto. Oh, oh, non è che lo stavi per sputtanare, l'hai sputtanato proprio. Grazie, che notizia. Una bomba. Grazie, commissario. Questa volta vinco il premio Pulitzer. Madonna. Questo è il commissario Logatto. Commissario Logatto di Dino Risi con Lino Banfi che mette nei guai Bettino Craxi, niente meno il virilmente calvo, il testosteronico Craxi che scopre la sua scappatella con la Russinova e salirà al governo Andreotti. La fantapolitica e la realpolitik che si fondono insieme in questo film degli anni Ottanta, in cui ancora queste erano storie relegate nel mondo immaginario del cinema. Se non sbaglio, l'errore del commissario Logatto è raccontarlo a un giornalista. Sì, sì, quindi improvvisamente l'opinione pubblica viene contaminata con la storia, diventa materia di trattamento giornalistico e quindi diventa un'altra cosa. Esatto, invece lui pensa di essere in un confessionale, invece apre, divulga. Ecco, avevamo al telefono Vincenzo. Vincenzo ci ha telefonato nella seconda parte della trasmissione, ha fatto per 15 anni il vero mestiere dell'investigatore perché era carabiniere e mi sembra Vincenzo aveva interpretato così quello che ha detto lei. La televisione sembra scoprire l'acqua calda adesso. Sembra che improvvisamente, perché se ne accorge la televisione, accadano certe cose in famiglia. In realtà mi sembra di capire che questo era il pane quotidiano del suo lavoro. Sì, sì, guardi, ripeto, ci ho visto tanti tipi di reati, da disgrazie sociali a fini sessuali, da delinquenze, pure io vengo da Napoli, cioè in piena camorra, quindi un po' rifletti su quello che succede. Giù al sud la delinquenza ha un fine... monetario, diciamo, cioè fanno le rapine, fanno i furti, cioè è un lavoro, diciamo, sì. Sì, su al nord non ci sono questi tipi di ansie sul popolo e succedono altri tipi di reati per noia, magari. Cioè, ho visto ragazzi miliardari che si sono distrutti la vita per due cannette o per un po' di cocaina. Quindi, dopo rifletti, cioè, alla fine è un problema di essere umano. Cioè, senta, quanto conta, Vincenzo, secondo lei, perché lei quando va sul luogo del delitto, quando comincia a interrogare persone, a un certo punto vengono i giornalisti, quelli che fanno il giro in questura, fanno il giro dai carabinieri, la pressione della stampa e la ricaduta sull'opinione pubblica, quanto incide sulle indagini, sulla serenità degli indagini o sulla possibilità di avere quella giusta riservatezza per avere il tempo necessario per incastrare i colpevoli? Allora, guardi, sinceramente le spiego quando conta, secondo me, ora non so se... Io sono 7-8 anni che non faccio più questo lavoro, va bene? E non so se questa cosa si è rimodernizzata, non credo, però fin quando io ho fatto questo lavoro le dico che c'era la massima discrezione anche tra ufficio e l'ufficio accanto, nel senso che i colleghi non sapevano cosa stiamo interrogando, cosa stiamo facendo, tutto quanto, ok? I giornalisti erano fuori la caserma, nessun appuntato carabiniere brigadiere aveva un pensiero di sottobanco chiamare un suo amico giornalista e sto quanto. Quindi A parte che in questi casi particolari interviene direttamente la magistratura, non è che ci sono degli interrogatori col maresciallo e comandante. Beh, io ieri ho visto in televisione la sbobinatura con spicheraggio di tutti i verbali possibili e immaginabili a tempo reale. Certo, non si fa in tempo. Qua parliamo, scusi, di business, questa è un'altra cosa, questa è televisione, giornali, cioè, questa è proprio un'altra cosa. Ripeto, io ho fatto l'investigatore, va bene? Poi nei carabinieri c'è una certa disciplina, cioè non esiste una cosa, cioè, del genere. Cioè indagini anche a farle su un collega, ma proprio per serietà personale anche del collega. Cioè non è non lei ha mai trattato casi di cui ha parlato poi la televisione? Cioè casi... Sì, ripeto, questo caso che sono rimasto per dire un attimo male di questa donna che non si è più trovata, alla fine era stato il marito che è venuto a fare la denuncia da noi, è stata una giornata in caserma. E poi quando abbiamo trovato questo marito che era scomparso, che abbiamo capito tutta la cosa, si è ucciso. Era in macchina a dormire su un paesino a Camaiore, all'atto Paolo l'abbiamo chiamato e si è ucciso. E non abbiamo mai più trovato questo corpo. Per dire, là vedi l'essere umano a cosa può arrivare. E lei c'è stato assieme una giornata e non era, gli è passato nemmeno per l'anticamera del cervello e potesse essere lui il colpevole? Ma guardi, forse le spiego, ma al momento che questo signore è venuto a fare la denuncia è stato mezza giornata in caserma e dopo si è attivata tutta una serie di cose. Io ero di quelli che siamo andati a Firenze perché ci aveva detto che aveva un fidanzato, abitasse con un ragazzo, e quindi siamo andati subito a Firenze. Abbiamo trovato questo ragazzo, io e il mio collega, l'abbiamo interrogato. D'aspetto sembrava il classico ragazzo discotecaro che la faceva drogare, infatti, cioè, era il contrario, una persona modissimo. Era in ansia per l'ex marito che si stava separando, che ci aveva la sentenza a terra a poco. E quindi le dico, cioè, noi ci siamo spostati, uguale abbiamo cercato da tutte le parti, quando dopo due giorni non abbiamo più trovato e rintracciato l'ex marito, questo Paolo, cioè, ci siamo un attimino, dov'è, cosa è andato a finire? E le dico, abbiamo, non so se lei conosce la zona di Viareggio, no, che c'è il 40% di territorio che è tutta pineta, abbiamo scandagliato pineta, laghi, cioè impossibile. Quindi il lavoro è tutt'altra cosa rispetto al tempo reale. Sì, oggi sembra tutto così facile, sembra tutto così semplice, stiamo tutti a aspettare la nuova notizia, l'arresto, il rientro delle persone interrogate fino a notte tarda, arrivano con la macchina. Il tempo reale però è antitetico a ogni mediazione, a ogni racconto fantastico, a ogni trasposizione letteraria, che invece in quel cinema che noi stiamo questa mattina raccontando era un guizzo molto presente. Commissario presso il Vaticano, Natale Logato, cattolico praticante. La mano di Satana è penetrata nella nostra casa con barbara feroce. Noi confidiamo, con l'aiuto di Dio, di assicurare il colpevole nelle mani della giustizia terrena. Riusciremo sicuramente, Vostra Santità, anche perché io non guardo in faccia nessuno. Bravo, figliolo. Vai e indaga. Vai, vai. Sì, vado, ma prima... volevo chiedervi una cosa. Dove si trovava Vostra Santità la sera in commesso? Qui siamo nel paradosso dei paradossi, quando Banfi ancora faceva ridere, era il suo vero spessore, prima che diventasse serio, sì, e noioso, capito? Addirittura arriva a parlare col Papa. Da Gid a Lino Banfi, che sbuca dai sotterranei del Vaticano e chiede l'alibi a Wojtyla e viene mandato in esilio a Favignana. Come giusto, tutti i commissari che in realtà vanno oltre quel livello di rappresentazione che fa tanto divertire e tanto intrattiene, poi improvvisamente devono scomparire perché non stanno più al gioco. Grazie Sansonna padre, grazie ai nostri ascoltatori, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.